Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di DJ Telesforo. Appuntamento numero 117 del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buon pomeriggio a tutti voi da GG Telesforo e buon pomeriggio a un meraviglioso musicista, un mio collega sassofonista fra i più quotati in Italia in questo momento, ma già da diversi anni. Ha appena finito di registrare un nuovo disco, la verità è stato pubblicato all'estero già da un po' di tempo, ma ne parliamo oggi con il maestro Gaetano Partipilo. Buon pomeriggio Gaetano e benvenuto al Soundcheck. Grazie GG, buon pomeriggio a tutti e grazie di avermi invitato qui. No, è un piacere per me, intanto perché ti faccio subito i complimenti, hai registrato un disco bellissimo, tra l'altro con la partecipazione di altri amici strepitosi, da Fabrizio Bosso, c'è il nostro corregionale Nicola Conte, la bravissima Rosalia De Sousa, Heidi Vogel, la bellissima voce di un'altra vocalist italiana molto quotata adesso che è Alice Ricciardi, e poi un maschietto, un bravissimo cantante chiamato Mr. Natural. Ma qual è il vero nome di Mr. Natural? Il vero nome è Pippo Foglianese, un mio amico di vecchissima data ed è uno dei musicisti che più mi ha influenzato nel corso degli anni, perché diciamo lo conosco da una vita e ho scoperto il jazz anche grazie a lui. Molto bene, senti Gaetano, allora oggi parliamo di musica con te per presentare il nuovo disco, ma intanto mi puoi raccontare la tua storia, come mai hai scelto la musica come compagna di vita? Ormai la fai da tanti anni, tu ti sei diplomato anche al Conservatorio Piccinni di Bari e oggi insegni, quali sono stati gli step fondamentali per la tua crescita come musicista? Beh, sicuramente come dicevi tu, l'aver frequentato un conservatorio, aver studiato musica classica è stata una tappa molto importante. Ecco, perché tu appartieni a quella generazione di musicisti che non ha avuto la possibilità di frequentare il triennio jazz, tu ti sei formato proprio sulla scuola classica. Assolutamente sì, purtroppo tra virgolette ho dovuto frequentare il corso classico perché era l'unico disponibile al momento e poi ho perfezionato i miei studi un po' assieme a jazz e poi ho anche recuperato il tempo perso diplomandomi anche in jazz e prendendo anche il biennio specialistico in jazz. Ecco, tu sei pugliese, vieni dalla provincia di Bari e nella nostra regione c'è anche una tradizione bandistica molto forte. Hai mai suonato in una banda di quelle locali? Ti dirò di più, mio padre era il capobanda, è qui che volevo arrivare. Io sono stato praticamente iniziato al sassofono all'età di 7 anni da mio padre, sassofonista come me, tant'è che oggi uso il suo sassofono di una vita. E quindi non avevo altra scelta, cioè io dovevo suonare il sassofono così come mio fratello, quindi è stata una sorta di, in un certo qual modo, una schiavitù iniziale. Poi questa cosa qui è, insomma, ha cominciato a prendere piede, mi sono appassionato e insomma è diventato in maniera molto naturale una ragione di vita. Eh sì, perché i ragazzi in molte regioni, soprattutto nel sud, si formano musicalmente suonando nelle bande, poi però a un certo punto devono fare una scelta se continuare ad affrontare la musica anche da un punto di vista professionale o se tenerla soltanto come hobby, come spesso succede fra i musicisti che appartengono alle bande musicali. Allora, continuiamo a raccontare la storia di Gaetano Partipilo fra pochissimo qui al Soundcheck di Radio 24. Intanto io ti voglio presentare questo nuovo progetto di un batterista polistrumentista che si chiama Zack Nager, che ha incontrato Gregory Porter, suo amico da tanti anni, un po' di tempo fa, senza sapere che poi Gregory Porter anche quest'anno avrebbe vinto il Grammy Award come miglior disco di jazz con Liquid Spirit. Il brano si intitola Issues of Life, da Sbonix e Gregory Porter insieme al Soundcheck di Radio 24. You walk through the trials and the tribulations of life. famosissima in tutto il mondo di Gregory Porter per questo album prodotto da Zach Nasher, che va in giro come Zbonix qui al soundcheck di Radio 24 in questa puntata con ospite il maestro Gaetano Partipino. Soundcheck, il suono della musica. Sì, il maestro Congheiro Poncho Sanchez apre la seconda parte del soundcheck qui su Radio 24 con un classico di tutti i tempi intitolato One Mint Julep. È una cosa che mi è sempre piaciuta di Poncho Sanchez, è proprio la sua abilità nel riuscire a coniugare le sue tradizioni di percussionista afro-cubano con il piacere di interpretare classici che spaziano dal jazz al rhythm blues. Oggi al soundcheck nostro ospite c'è il maestro Gaetano Partipino, eccellente sassofonista jazz italiano, quotato in tutto il mondo, suona con i migliori musicisti italiani, ma è qui per presentarci questo nuovo lavoro intitolato Besides, Songs from the 60s, canzoni che arrivano dagli anni 60 perlomeno come ispirazione. Come mai Besides, Songs from the 60s, Gaetano? Besides perché c'è un riferimento proprio alla parola in senso letterale. Besides lo intendo come oltre a. Oltre a perché? Perché io nella mia breve carriera artistica ho sempre guardato alla musica moderna, alla musica newyorkese. Diciamo che chi ha ascoltato i miei dischi precedenti sa quello che faccio, sa come mi sono districato nel contorto mondo del jazz. E invece con quest'album ho voluto un attimino mettermi alla prova in un repertorio formato quasi esclusivamente di canzoni che vengono dalla tradizione degli anni 60, perché poi magari spiegherò anche bene il motivo perché gli anni 60 e non un altro. Beh, ce lo puoi spiegare subito. Perché, ecco, questo si ricollega anche alla storia di mio padre. Mio padre aveva a tuttora 500-600 album di quel periodo, quindi io da bambino sono nato e cresciuto tra i dischi di Jerry Mulligan, di Perez Prado, di Tito Puente, ma anche dischi della canzone italiana, la canzone brasiliana, quindi ho sempre ascoltato e sempre riconosciuto quel mondo come un mondo a me vicino, pur dedicandomi in maniera professionale a un jazz di estrazione un po' più attuale. Quindi quando hai pensato al disco hai pensato al tuo papà, forse ti sei anche inconsciamente posto questa domanda: che cosa potrei suonare che possa piacere a mio padre? Beh, fino a un certo punto può essere anche una ragione, però la riflessione principale che ho fatto è che mi sono accorto che quando ascoltavo quella musica lì io stavo bene, mi piaceva. Ho detto, ma perché non misurarsi nella realizzazione di un album completamente diverso, dove entrano in gioco fattori completamente opposti, la durata dei brani, la tonalità, avere a che fare con dei cantanti, gestire bene il suono, e anche il packaging artistico è completamente diverso rispetto a un disco di jazz moderno. Sì, hai realizzato una produzione non tanto vicina alle ottiche, alla mentalità jazz, ma hai fatto un lavoro notevole, anche perché, e lo noteremo subito dal primo brano di questo album bellissimo, Besides, Songs from the 60s di Gaetano Partipino, una composizione intitolata Moonflower, dove viene fuori un bellissimo senso per la melodia, anche una bella orchestrazione che supporta la agile e delicata voce di Alice Ricciardi qui al soundcheck di Radio 24. Check, il suono della musica. Gaetano Partipilo, il maestro Partipilo con i suoi sassofoni, sì, una serie di sassofoni che non so per quale motivo i sassofonisti poi si divertono a sperimentare la loro abilità su quasi tutta la gamma di sassofoni, dal baritono al tenore, alto e soprano. Ma tu sei un altista, quali sono stati gli altisti di riferimento per la tua crescita musicale? Beh, ce ne sono stati diversi. Sicuramente uno su tutti è Cannonball Adderley, che per me rimane il sax alto in assoluto. Poi ce ne sono tanti moderni che continuo ad ascoltare ancora oggi e sono veramente la mia fonte di nutrimento quotidiana. Parlo di Steve Coleman, Greg Osby, mi piace molto Dave Binney, mi piace ascoltare le nuove leve, mi piace molto Benny Van Gelder, mi piace molto Steve Lehman. Rudreshman Tappa fa della musica veramente molto interessante. E, insomma, ogni giorno ne esce uno nuovo. Esatto, musicisti contemporanei della nuova generazione, però adesso da qualche mese insegni al Conservatorio di Foggia, esattamente nella sede distaccata di Rodi Garganico, sì, perché il Conservatorio di Foggia, che è una bellissima tradizione per l'insegnamento di stampo classico, ha il triennio di jazz, ma nella sede lì nel Gargano. E allora, quindi, ascolti anche i musicisti contemporanei, ma bisogna parlare della tradizione del jazz ai ragazzi. Che cosa cerchi di inculcare alle nuove leve? Assolutamente la tradizione è alla base, il linguaggio del jazz, dello swing, del blues, che poi è l'anima trainante del jazz anche nelle sue forme più contemporanee, cosa che molto spesso viene tralasciata. E io sono abbastanza fiscale con i miei allievi, innanzitutto nell'ascoltare il jazz, nel comprare dischi, crisi permettendo, e nel documentarsi dei grandi musicisti attraverso i dischi più che attraverso i vari Wikipedia o simili. Il jazz è una musica che va vissuta e va compresa dalle origini, secondo me, e credo sia necessario fare un percorso completo. E oltre al jazz ascolti anche altri versanti musicali, l'R&B ti piace, il world music? Beh, io sono un fan di tutto quello che è black, non voglio qui stare a fare nomi tipo Sly and Family Stone o James Brown o Maceo Parker, però sono anche molto attento a ultimamente soprattutto al cosiddetto British pop attuale. Parlo di Radiohead, parlo anche di Coldplay, che in questo momento mi stanno catturando molto la mia attenzione. E non solo la tua, perché avrai notato che anche nelle pubblicazioni di ottimi interpreti jazz contemporanei, nelle nuove produzioni ritroviamo titoli che non appartengono poi che ne so al songbook classico del jazz, ma arrivano proprio dal British pop o dal rock and roll, per dirla così in termini semplici. Allora, visto che ti piace anche la R&B, ti propongo una band indipendente americana, sono dei miei amici, arrivano da Chicago, una band assolutamente sconosciuta nel nostro paese, si chiamano Fat Function, con una passione per le band tipo Tower of Power, Earth, Wind and Fire. Il brano si intitola Miss Madison, molto divertente qui al Soundcheck di Radio 24. Sì, erano i Fat Function direttamente da Chicago, qui al Soundcheck di Radio 24. Non mi resta che ringraziare per la partecipazione Gaetano Partipilo, e quindi spero di rivederti prestissimo, magari su un palco. Abbiamo fatto tante performance insieme, ti auguro successi con l'insegnamento e con questo bellissimo album intitolato B-Sides, pubblicato dalla Schema Records. Quando ci rivediamo? Subitissimo, Gege, grazie. Spero veramente di rincontrarti subito sul palco, perché no, insomma. magari anche in studio di registrazione, chissà. E certamente, tocca inventare sempre qualcosa. Allora chiudiamo con una composizione di Gary McFarland, che credo arrivi da un film di molti anni fa con David Niven, se non erro, giusto? Sì, David Niven e Sharon Tate, il film si intitola The Eye of the Evil, ed è un film purtroppo non uscito in lingua italiana, però è una vera chicca, un film in bianco e nero, molto molto bello. Il brano si intitola 13 Death March. Gaetano Partipilo chiude il soundcheck di oggi. A tutti voi buon pomeriggio e buona musica da Gegè Telesforo. Suono della musica.